Costanziellora, il variar pensiero, con tanto ardor chi si difendereo? E chi mai si favella? Allor sarei colpevole, se terreo non parissi, ma non degna ruggermo, contro il molle tuo sere stringe la spada. Al maggior uopo io giunsi, entro al molle mio seno, alberga un cuore, al tuo ceder non so. Vezzo su ardire. E taci e va, di tua bellezza armato, a far preda dei cuori. Il brando stringi, è tempo ch'io mi scorra, è mio il tuo ferro, e sembra mi vendetta, e tuo il mio petto. Quello in campo da te, prendi tuo brando, e tu donna, labbro nulla dice di più. Donna, mi intendi, porta altrove il tuo amore, per te va in salvo il fiore dei miei eroi. Se vagabondo il genio allete il cuor, senti, roccia,